Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, Luca Tremolada al microfono, sono le 16.33, siamo in collegamento a Roma con Cristina Tagliabue che è andata questa mattina alla presentazione dei 40 anni del Gifoni Film Festival, ci saranno, racconterà un po' di novità, prima lasciatemela salutare, buongiorno Cristina. Buongiorno a tutti voi. Benissimo, bella scattante, ti sento, com'è il tempo a Roma? È bellissimo, ecco, purtroppo. Lo sapevo. Quindi diamo subito gli appuntamenti scritti da Cristina Tagliabue. Lunedì 22 marzo all'Art Point di Via Tortona 27 a Milano si terrà alle 18 il vernissage con presentazione del libro From Fashion to Art, The Vogue Lesson, edito da Schira con Flavio Lucchini, Luca Beatrice, Elio Fiorucci, Oliviero Toscani. La mostra The Vogue Lesson partecipa al circuito Contemporary Art 2010 aperta dal 22 al 30 marzo. Il 22 marzo 2010 inaugura a Roma presso la Galleria RAM Radio Arte Mobile in via Conte Verde a Roma la mostra Camere 11. In mostra in tre diverse stanze tre opere che sono in parte suono. Riccardo Benassi propone un ambiente con il solo utilizzo di feltro e suono. Magnus Otterton, scrittore e artista visivo, darà voce alla stanza attraverso il suono che emettono gli oggetti quotidiani. Elisa Strin presenta il video Anatomia di un sogno, ovvero una stella ripresa prima dell'alba e seguita fino a quando non diventa giorno e scompare nella luce. La mostra è aperta dal martedì al sabato dalle 16.30 alle 19.30 e dura fino al 30 aprile. Giovedì 18 febbraio 2010 alle ore 19 la Galleria Antonio Battaglia in via Ciovasso 5 a Milano inaugurerà una nuova mostra di Enzo Rovella dal titolo Universi. Nella sede dei Landscapes si vedranno paesaggi di tronchi e radure, frammenti di alberi, distese innevate. Nella serie Colors prendono forma paesaggi mentali in cui il colore si dispone in libertà sopra la tela in sottili nervature. L'effetto è l'associarsi di due prospettive opposte e complementari, dettagli infinitamente piccoli e panorami a perdita d'occhio. Parte da Torino il 25 marzo al Teatro della Concordia il tour teatrale Manifesto Abusivo di Samuele Bersani, cantautore tra i più acuti e visionari della nuova generazione. Il tour prosegue fino al 13 maggio nelle principali città italiane. Per dettagli sulle date www.manifestoabusivo.it. Eccoci in onda, allora, tra le novità presentate a Roma anche questa Gifoni Multimedia Valley, ma so che a raccontarci che cos'è questa nuova cittadella della produzione cinematografica per ragazzi, tu hai lì con te Claudio Gubitosi, che è il fondatore storico del Gifoni Film Festival e anche architetto dell'immaginario, poi ci spiegherà perché è anche architetto dell'immaginario. Buongiorno. Prego Claudio. Buongiorno, ciao, sì, grazie. Ma, non lo devi chiedere a me, ma a chi mi ha fatto questo curriculum che ha veramente anche un po' dell'incredibile. In effetti ci troviamo di fronte a un qualcosa di straordinario. Più che parlare di cinema, più che parlare di contenuti, ho sempre detto a tutti i miei collaboratori, chiamiamo uno psichiatra, perché veramente oggi, a 40 anni di distanza, parlare di Gifoni e di Multimedia Valley, quindi quello che è successo 40 anni fa in un paese di appena 9.760 abitanti, nel cuore della provincia di Salerno, non sul mare, un piccolo paese senza strutture, alberghi, ristoranti, cioè tutto quello che si può immaginare una vocazione turistica che non c'era. Beh, oggi sapere che è leader nel mondo in questo settore, che è conosciuto ed apprezzato dal 76% degli italiani, che viaggia in 42 nazioni, che ha 60 dipendenti fissi, beh, vi rendete conto che parliamo di un qualcosa di molto molto industriale anche. No, ecco anche, Luca. Sì, vai. Ah, scusami, no, perché in realtà, come dire, il dottor Gubitosi si sta parlando del Gifoni Experience, ovvero del momento che da 40 anni, come dire, l'appuntamento di luglio, in cui si riuniscono una quantità enorme di ragazzi, film, eccetera, eccetera. La presentazione di stamattina invece riguarda un progetto più ampio e ovvero la Gifone Multimedia Valley, cioè su un finanziamento della Regione Campania e dei fondi europei, soltanto la prima tranche si tratta di 20 milioni di euro, in realtà si verrà a creare una vera e propria, in quel di Gifone, una vera e propria cittadella della creatività. Della creatività. Ecco, allora vediamo di capirci, io sono un uomo un po' grigio, però 20 sì. milioni di euro solo per fare le strutture, poi ho letto più 4,5 milioni di euro per i contenuti, corretto? Sì, no, è un po' la lista della spesa, cioè io sto segnando come il panettiere. È corretto quello che lei dice. Però è un sacco di soldi, cioè nel no, senso. Invece sono no. sempre pochi. E spiego perché. Perché appunto parliamo di 40 anni di storia, di un'idea che ha viaggio nel mondo, che dà lavoro, che ha creato un polo creativo formativo molto forte, che è leader nel mondo in questo settore, che presenta i migliori film, non a caso, non so, l'anno scorso la Warner Bros. Ha scelto Gifone per l'anteprima mondiale, quindi prima di Los Angeles e di altre, di Harry Potter e così tante altre cose. Ma al di là di questo, di che cosa parliamo? Di una vera e propria industria della cultura, e come industria noi dobbiamo ragionare in questa ottica, cioè nato come festival, trasformato come un elemento di sostegno per l'industria cinematografica, poi mano a mano si è trasformato, tanto come ha detto Cristina, che lo scorso anno sono stato costretto a cambiare il nome Film Festival, perché tutti sappiamo che un festival dura poco, come quello di Cannes, di Venezia, di Berlino. Passati quei giorni dove si vive l'esperienza, poi tutto finisce. Gifone produce 250 giornate di attività durante l'anno, coinvolge circa 350.000 studenti durante l'anno, appunto una solida struttura non di volontariato ma che lavora notte e giorno, coopera con 42 nazioni, ci si fa per esempio Gifone Hollywood, Gifone ecco, d'Australia. Lei ha detto apposta Gifone Hollywood, perché la cosa sì. che vogliamo capire è anche un po' l'ambizione, perché non mi sembra di capire che sia un parco giochi, mi sembra che questi siano tempi in cui sia importante dare, innanzitutto dare una misurabilità a tutto ciò sì. che è industria culturale, per cui insomma sì. io mi aspetto che ci sia un ragionamento sulla redditività di un'iniziativa di questo tipo, però mi domando qual è la vocazione, ovvero visto che l'Italia non è Hollywood, ha un passato cinematografico sicuramente strabiliante, oggi è un po' alla ricerca di una propria identità. All'interno di questo quindi abbiamo un cinema italiano che fa un po' fatica, per tradurre e parlare in maniera un po' più schietta, poi abbiamo una cinecittà, un'industria del cinema che insomma anche lì sta perdendo un po' di pezzi, si sta spostando un po' a Torino, un po' a Venezia, non si capisce, e adesso nasce questo grande investimento per il cinema e per il multimedia. Sì. Delle due l'una, cioè che cosa stiamo scegliendo come paese? Di ricreare un'industria cinematografica italiana con un film italiano, cosa che mi sembra complicato visto i pochi soldi che ha il cinema italiano, oppure stiamo provando a scegliere una specializzazione? La domanda è lunghissima, però la risposta però, è breve. Però la risposta è semplicissima, una specializzazione, esattamente una nicchia come quello che Gifone ha fatto 40 anni fa, quando nessuno credeva nell'esperienza o nella produttività del cinema per ragazzi, cosiddetto per ragazzi, e poi ci siamo accorti dopo 20 anni invece che è il 60% del media business mondiale. Però per capire meglio, per lei e anche per chi ci ascolta, bisogna entrare nello spirito, nella missione, come lei diceva, anche di Gifone. Cioè Gifone appunto fa il suo ruolo per l'industria cinematografica, portando quelli che non sono ancora i talenti italiani o mondiali, quindi scopre questo, l'ha fatto nella sua storia, ci sono un po' il meglio del cinema mondiale, e li porta all'attenzione del mercato. I nostri film, per esempio, vengono venduti da un minimo di 20 paesi ad un massimo di 120 nazioni. È evidente che soffriamo pure noi per la mancanza di una produzione anche un po' speciale del cinema per ragazzi, ma forse non è un male, perché ad esempio quello che hanno fatto gli altri paesi indirizzando totalmente delle produzioni per le giovani generazioni, noi abbiamo invece grandi autori, grandi registi, e poi una produzione di altissimo livello che si rivolge anche ai ragazzi. Quindi ecco, ho una domanda che giro sia a Cristina e sia a lei, cioè definiamo cinema per ragazzi, perché io non sono sempre esiste. Stato molto esatto, cioè io sono sempre molto critico quando si prova, poi di questi giorni abbiamo visto la polemica sugli occhialini in 3D, la certo, difficoltà sì, del cinema in tre dimensioni, certo, che doveva essere un cinema per ragazzi, a questo punto è tutto un po' in discussione. Ma non è così, non è che un film con gli occhialini lo possono vedere solo i ragazzi. Io vado volentieri al cinema a vedere i film in 3D e mi metto gli occhialini, non è quello il punto, ma al di là del problema dell'igiene degli occhiali da gettare o di quelli lì che sono un po' più impegnativi. Il concetto, noi abbiamo, lo posso dire senza problemi, lo posso dire io che sono un po' il padre, voglio dire, in Italia del cinema per ragazzi, non esiste, è un qualcosa che noi abbiamo per sintesi dovuto dire in tutti questi anni, parliamo di cinema per ragazzi, ma parliamo di film che parlano, trattano, presentano, propongono tutte quelle che sono la bellezza, i tormenti, le angosce, ma anche la struttura di un film che sa parlare degli adulti ai ragazzi e dei ragazzi agli adulti. Quindi un buon film è un film anche per ragazzi. Pescherete, ecco, dalla... Luca, sì, vai. Scusami, interrompo perché anch'io volevo dare la mia definizione di cinema per ragazzi. Cioè, in realtà non lo so, perché vado da Mary Poppins in poi. Ma io credo che per la nostra generazione soprattutto, cioè noi che siamo cresciuti con il cinema dei ragazzi, quindi la Walt Disney, in realtà siamo cresciuti e ancora continuiamo in realtà a essere appassionati e guardare cinema per ragazzi. Quindi la nostra generazione di Forever Young, se non tu, io comunque me la metto addosso questo cappello, diciamo, in realtà continuano, no, a seguire questo genere di cinema. E quindi, cioè, alla fine, oddio, non e poi non mai è che sia uno che guarda, perché se la metti così sembra che sia uno che guarda film solo in bianco e nero o con sottotitoli in cecoslovacco, no? Però cioè non è così, insomma. Però tu stai dicendo che, insomma, ha un senso questa cosa. Ma io vedo, guarda, io posso leggere una cosa, io non sono mai stata a Giffoni, però ovviamente me ne hanno parlato, perché ovviamente è una cosa molto nota nell'ambito. Ah, tu sei lontana, diciamo, da me, ma non sai che sono già le 16:45 e dobbiamo dare la linea al traffico, per cui la cosa che mi vuoi leggere me la leggi subito dopo, Cristina. Nova Lab 24. E eccoci, studio 16:47, siamo in compagnia di Claudio Gubitosi e di Cristina Tagliabue in collegamento da Roma. Cristina, stavi dicendo... Stavo dicendo che è difficile parlare di cultura perché in realtà spesso e volentieri, insomma, ci si può annoiare. Quindi qui adesso provo a fare un po' la giornalista, quella che tratta di numeri. Quindi parliamo del Giffoni Film Festival, ovvero Giffoni Experience, questo festival che si tiene in luglio e che oggi in qualche modo ha presentato un grande progetto di multimediavali. Ebbene, giusto per dare qualche numero, proprio per dare un'idea di che cosa sia per il mondo dei ragazzi e anche per la Campania, no? Per il Genius Loci, proprio della regione, questo appuntamento, ci sono 30 dipendenti, 26 collaboratori annuali, 4 consulenti esterni per la direzione artistica, 4 consulenti esterni per la funzione legale, eccetera, 12 collaboratori e progetti internazionali, 400 contratti di collaborazione soltanto per il mese di luglio, 65 aziende fornitrici di beni e servizi. Ecco, ma questi prima o dopo d'albergo, i soldi che ricevono? Cioè, questo prima, nel senso, in questi 40 anni ovviamente è stato fatto questo festival che è diventato via via un appuntamento sempre più importante. Per esempio, il numero particolare in realtà è 2800 giurati, che sono tutti ragazzini, e qui dobbiamo dire davvero ragazzini, nel senso che così, cioè non sono adulti camuffati, vuoi dirmi? Cioè che... 7000 istituti scolastici italiani contattati per i vari progetti. No, va bene, quindi insomma tantissimi numeri importanti. Noi cercheremo di capire, insomma, che cosa succederà alla Giffoni Multimedia Valley. La speranza è che non diventi una roccaforte nel deserto, non diventi qualche cosa di lasciato lì, ma che insomma tutti quanti cerchino di creare un distretto di creatività, un distretto per il cinema. Mi sembra che sia questa un po' la speranza, io, no? Sì, ma condivido le sue preoccupazioni e condivido naturalmente la speranza. Io so quello però che voglio fare, so quello che in 40 anni ho portato avanti, so come ho convinto, perché non è stato semplice, i miei interlocutori pubblici, regionali, ministeriali, su questa bontà del progetto di Giffoni Multimedia Valley, cioè creare praticamente un polo nella mia regione, in un'area non vocata a queste cose, per fare in modo che tutto quello che noi abbiamo fatto, e i numeri ci danno ragione in questi anni, di osare, perché devo presentare a un festival solo i film degli altri e non invece mettere insieme tutta questa straordinaria capacità di invenzione che hanno i miei ragazzi, che ha la mia regione, che hanno i ragazzi di ogni parte d'Italia? Abbiamo selezionato tra l'altro 100 bravi ragazzi, li siamo portati per 10 anni avanti, di ogni parte d'Italia, che formano un gruppo che si chiama Masterclass. A loro sarà affidato anche il compito di scrittori, sceneggiatori, operatori del settore, della comunicazione, e perché no registi e perché no attori. Qual è il mistero o il segreto perché Meryl Streep, Al Pacino, Oliver Stone e i più grandi del cinema europeo e italiani vengono a Gifoni senza promuovere un loro film? Allora bisogna vedere tutto questo valore, che è un valore straordinario, di non disperderlo. Il marchio di Gifoni è apprezzato e conosciuto dal 74% degli italiani. In questo momento io che cosa ho chiesto? Datemi fiducia. Cerchiamo di immaginare un percorso che va oltre la manifestazione. Non a caso la interrompo un secondo, questo Prego. È un po' il tema di tutti di tutta l'industria culturale, che si basa sugli avvenimenti, cioè cercare di non vivere dell'evento, non vivere della manifestazione, ma di prolungare insomma il festival, anche l'evento, nel tempo, in modo tale da creare un indotto più duraturo. Che le posso dire in bocca al lupo, e vorrei velocissimamente introdurre 8Dix. Chi è Cristina? 8Dix è da una parte un cantante, dall'altro un artista, nel senso che 8Dix è un nome in codice e la persona che si nasconde dietro di lui è Alessandro Zannier. Buongiorno. Perché ci interessa? Buongiorno. Abbiamo purtroppo pochissimi minuti, io farei sentire un pezzettino della sua canzone. Allora, il titolo? Il titolo è Iman, e fa un po' il verso a quello che è l'era del high tech, iPod, iFi. L'avevamo capito, l'avevamo, avete centrato proprio il punto proprio un po' capito. Vocale. Però insomma, vediamo di fare. Cristina, introduci tu. Ma non lo so, avevamo, adesso non so se vuoi appunto lanciare diciamo la biografia di 8Dix, o vuoi che non io abbiamo brevemente tempo, abbiamo un minuto. Beh, allora semplicemente posso dire che è stato fatto un album, no? Che in qualche modo ha richiamato l'atmosfera del Mago di Oz, e diciamo che è stato filmato, ripreso, sono state fatte delle animazioni in 3D anche, che sono diventate abbastanza famose, realizzate da Marco Marchesi, che insomma sono state molto viste su internet rispetto a diciamo, ma qual è il senso musicale di questo? 8Dix, cos'è che ci vuole raccontare? Cos'è che ci vuole dire? Sì, in realtà ho creato una sorta di concept album, come non se ne facevano da un po', e con una storia che ho scritto, un vero e proprio soggetto teatrale che ho sintetizzato sotto forma di filastrocca per il booklet del CD, e sul quale impianto si sviluppa tutto l'album, tutta la parte audio dell'album. In realtà è una sorta di grande colonna sonora di una fiaba che si svolge all'interno dei mondi virtuali, dei social network, un po' allora, popolata di avatar, un po'. Allora, 8Dix, mi sembra che sia chiaro che insomma la dovremo reinvitare un'altra volta. Il tempo purtroppo è tiranno, frase conosciutissima, quasi luogo comune. Io ringrazio Cristina Tagliabue, ringrazio Claudio Gubitoso, ringrazio 8Dix. Magari la prossima volta viene a trovarci in trasmissione. L'appuntamento è per domani alle 16:30. Buongiorno. Nova Lab 24.